Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Signora Brigliadori, Nadia Toffa delle Iene, salve. Noi stiamo facendo una cosa sacra, voi siete il contrario della sacralità. No, mi infatti prego, andate. No, però noi siamo un po' preoccupati. Facciamo per cerchio. Questi consigli medici che dà in giro. Perché consiglia alle persone col tumore di non fare la chemio? Mi spieghi, la prego, perché è davvero pericoloso, Facciamo un IAO tra di noi. Si rende conto che è pericoloso dire a una persona che ha un tumore di smettere di fare la chemio? Chiudete le orecchie. Sono demoni pagati per rompere le scatole a chi fa le cose nel bene. Non conoscono lo spirito. Si rende conto che il guru che lei nomina... Aprite! E qui Eleonora Brigliadori allenta un mal rovescio alla Iena Nadia Toffa che barcolla. Ora questo filmatino, che è un estratto della prima rentrée delle Iene nella nuova edizione, io proporrei al ministro Lorenzin di farne uno spot e fare finalmente una campagna di comunicazione efficace per far capire agli italiani che l'evidenza scientifica è qualcosa sulla quale comunque nei margini possibili in cui si possa fare affidamento su qualcosa che è in continua riscrittura si può fare affidamento, ci si può fidare. In realtà la cosiddetta scienza alternativa, la medicina naturale, i perseguitati dalle lobby medico-farmaceutiche sono rappresentabili in questa fantastica performance di Eleonora Brigliadori, colta su una terrazza ligure, che faceva un rituale magico con un po' di altre sue accolite vestite come le fatine della bella addormentata nel bosco, e con quello loro portano avanti la loro proposta di cura alternativa al tumore. Delle creme da spalmarsi piuttosto che fare la chemioterapia, delle persone sono morte dando retta a queste cialtrone. 800 24 00 24, oggi ancora riparliamo di scienza e di pseudoscienza. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Portate nel cuore. Michele è con noi. Ma cosa state facendo? In Cristo, per Cristo, apro il mio cuore e accolgo le leggi del passato. Di Dio Padre. Per colpa del signor Hammer sono morte un sacco di persone quest'estate. E quanti ce ne sono nella storia che smettono di curarsi e muoiono? Lei aveva dei tumori, signora Brigliadori? Io posso. Lei può cosa? Io posso fare luce intorno a me. Occhio che questa me mena. Ma lei si rende conto di quante persone sono morte o no? Che smettono di fare le cure? 2000 persone muoiono di chemioterapia in Italia ogni giorno. 2000 persone. Ma cosa mia dice? Mia madre è morta di chemioterapia. Ripeto il mio appello. Caro ministro Beatrice, o ministra, come si preferisce, Beatrice Lorenzin, invece che riperdere tempo con campagne di comunicazione affidate a il primo che passa, visto che è importante, indispensabile per lei come per noi convincere gli italiani su quello che è un barlume di evidenza scientifica come maniera migliore per risolvere i propri problemi di salute, non perda tempo con le agenzie pubblicitarie. Prenda tale quale il frammento della non intervista del pestaggio di Nadia Toffa da parte di Eleonora Brigliadori e lo mandi in giro per tutte le scuole d'Italia, per tutti i centri di diagnosi, per tutti gli ospedali. Faccia vedere alle persone che preferiscono prendere i decotti piuttosto che fare la chemioterapia, che pensano che esista una sorta di via segreta occulta e perseguitata per risolvere i loro mali, di cui Eleonora Brigliadori, ma che è la più palese rappresentante perché è un personaggio dello spettacolo, ma ci sono un'infinità. L'Italia è piena di cialtroni che vendono fumo, l'Italia è piena di malfattori che si fanno pagare illudendo le persone che loro hanno le chiavi della medicina alternativa. Non esiste il termine medicina alternativa. La medicina è una, è quella che risponde all'evidenza scientifica. C'è una comunità di persone che si controllano a vicenda e vi dicono che al momento quella è la cosa migliore da fare, secondo i risultati che loro hanno in mano. Poi questo risultato può essere nuovamente cambiato, ma loro devono dirlo, non queste signore che giocano a fare, ripeto, le fatine della bella addormentata nel bosco, una rosa, una celeste, una verde, e fanno i loro rituali magici. Nadia Toffa, buongiorno. Buongiorno, ma come sono d'accordo? Indovina, ancora porti lividi e segni sulla tua pelle della tua opera di convincimento. Sei d'accordo che la Lorenzin dovrebbe prendere questo pezzetto e trasformarlo in spot per convincere le persone chi sono i cialtroni e in che maniera si muovono i cialtroni? Ma assolutamente sì. No, guarda, io veramente, credimi, sono allibita che si dia, come dire, credito a queste persone, ma poi mi medesimo anche in una persona che scopre di avere un tumore e sente una persona che comunque riconosce perché ha un po' di notorietà dire che a lei stessa è successo, che aveva il tumore, l'ha curato con una pomata per le emorroidi, gli è passato senza fare chemio, operazioni. Ma scusa, non l'aveva al seno questo tumore? No, per capire. Guarda, lei non ha mai pubblicato l'istologico. Io quando l'ho perché incontrata... se l'usava con la pomata emorroidale è un altro tipo di tumore, sempre rispettabile, sempre nefasto, però vabbè, comunque non entriamo nei particolari. Lei sostiene questo? Io l'ho chiesto, ma perché lei non ha mai pubblicato l'istologico? Se sostiene davvero di essere guarita solo con questa pomata, pubblichi l'istologico. Però scusami, Nadia, adesso, dopo che abbiamo visto quello che abbiamo visto, io, la Brigliadore è stata invitata qualche mese fa in una trasmissione RAI del servizio pubblico, sì, contrapposta lo so. A un illustre clinico italiano a dire che l'autismo derivava dai vaccini. Io che ho un figlio autistico, penso quanto ero indignato che il servizio pubblico chiamasse la Brigliadore, personaggio anche simpatico, folcloristico, possiamo farci due risate, ma quando le famiglie poi fanno delle scelte perché parlano questi cialtroni, in effetti poi dobbiamo prendere... È anche un po' colpa nostra, sono d'accordo. Mi dici cosa, allora, dimmi cosa stava accadendo, però. Gli spazio se si fanno delle denunce, cioè noi l'abbiamo ripresa, abbiamo mandato una persona, una ragazza che proprio perché aveva un tumore voleva aiutarci, diciamo così, a sbugiardarla, e quindi lei stessa suggerisce a questa ragazza col tumore di non fare la chemioterapia. Quindi sono denunce forti, ecco, allora io sono d'accordo di dare spazio a persone così, ma se c'è la denuncia. Ma cosa stavano facendo quando le colte lì tutte vestite da fate? Che non lo so, facevano un rito, dicevano di riavvicinamento tra il corpo e il cielo. Ma in mezzo so a una piazza, per strada? Sì, per strada, con le verghe, con questi abiti, i veli, non so. Ho cercato di farla ragionare, ci ho provato, nel senso che è davvero pericoloso quello che lei dice e quindi e che suggerisce alle persone malate, e perciò mi sentivo, proprio perché oltretutto ottobre è il mese della prevenzione per il tumore al seno, diciamo che la tempistica era perfetta e giusta. Io ripeto quello che ho già detto, Nadia, è stato più efficace il tuo servizio che tutte le campagne, per quanto ben studiate, per quanto articolate, per quanto capillari che possono fare i ministeri. Basta, guardatevi, vi prego, per ormai gira in rete, è diventato un cult. Questo video in cui si vedono le signore travestite da personaggi di Harry Potter, e sono le persone a cui voi affidate la vostra vita, la sicurezza dei vostri figli, la vostra speranza di sopravvivenza. Questo dovremmo far riflettere. Grazie intanto, Nadia, so che tu stai lavorando, volevo soltanto la tua testimonianza calda di quello che è accaduto. Ma ringrazio io te. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro a voi. 800240024. Questa mattina vorremmo che ci segnalaste tutte le volte, ma con coraggio, spudoratezza, che siete stati tentati, avvicinati, in qualche maniera siete entrati nella sfera di guaritori, di persone che si propongono come un'alternativa alla medicina ufficiale, facendovi riflettere, facendovi credere che esiste un grande complotto per cui in realtà la nostra salute è in mano a biechi affari. Ma ci potranno anche essere biechi affari, non voglio escludere a priori, facendo il giornalista, che ci sia sempre qualcosa di bieco in ogni realtà umana, ma che poi l'alternativa debba essere persone come queste, che sono sempre state dalla notte dei tempi indicati come i venditori di fumo, gli approfittatori delle disgrazie altrui, le persone che lucrano sul fatto, non so se la Brigliadore lucri, ma comunque sia, chi fa una diagnosi, chi inventa un medicamento, chi dà un farmaco omeopatico, chi pensa che si possano... Questi giorni c'è un paradosso. In molte farmacie c'è, per gli antivaccinisti, la réclame dei vaccini omeopatici. Cioè, non fate il vaccino, fatevi un bel siringone d'acqua zuccherata e sicuramente non vi verrà nulla. Dottor Salvo Di Grazia, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, dottor Salvo Di Grazia è una persona, secondo me, a rischio vita, è un medico chirurgo, specialista in ostetricia e ginecologia, cura da tempo un blog MedBunker, quello che chi cerca aiuto deve sapere. È un blog dove lui, con grande fatica e anche con grande rischio, perché è continuamente preso e bersagliato da gente che lo minaccia, che gli dice che è un prezzolato, che è un infame e via dicendo, in cui analizza tutti i casi e tutte le teorie e le frodi legate alla pseudomedicina. Lei sul caso Brigliadori e seguaci di Hammer si è mosso ampiamente, immagino. Sì, sul caso Brigliadori non in particolare perché è recentissimo, e anche perché è particolare, era ovvio anche dal filmato che parliamo di, insomma, di una storia particolarmente curiosa che ha pochissimo a che fare con la medicina. Hammer già è un altro discorso perché è un ex medico che dice, afferma di poter curare tutte le malattie semplicemente non facendo nulla. Questa teoria italiana dice che le malattie, i tumori vengono se si è avuto, se si è subito un conflitto, un trauma durante la vita, e quindi capendo il conflitto si guarisce da tutte le malattie e tutti i tumori. È una delle più deliranti pseudomedicine che ci sono al mondo, molto molto pericolosa. Anche perché non impegnano il medico in nulla, basta che tu rifletti sul tuo conflitto, il medico non deve fare assolutamente nulla, ti guarda soltanto, immagino. Ti segue ed è curioso notare che quando anche c'è un peggioramento inevitabile in questi casi, questo terapeuta dirà che è un segno di disintossicazione e quindi di miglioramento, quindi queste persone peggiorano, come è normale che sia in questi casi, senza fare nulla, e sono tranquillizzate dal fatto, guarda che questo è un segno che stai guarendo, e invece è qualcosa che porterà purtroppo a una brutta morte. Ma lei si è immaginato, dottor Salvo di Grazia, come mai le persone... per quale motivo, per quale debolezza, per quale meccanismo di elaborazione del proprio dolore, della propria malattia, hanno così facilità a credere in queste vie che razionalmente sembra impossibile poter immaginare che una persona ti curi semplicemente facendoti elaborare quello che è un tuo stato di preoccupazione o di ansia? Quali sono le molle profonde per cui oggi ci andiamo più verso lo sciamanesimo e la magia rispetto a una sana e concreta cultura scientifica? Io credo che siano due i principali motivi. Il primo è il più banale, il più istintivo, la debolezza e la fragilità umana, soprattutto quando c'è una malattia. È ovvio che in quei casi cerchiamo una soluzione facile, no? Immediata, economica, e di fronte questi falsi medici, questi guaritori, ci mettono davanti una realtà che è falsa, di una medicina cattiva, che complotta, che desidera la morte del paziente, che avvelena. Davanti a questo bivio, una cura pesante con effetti collaterali che non sempre funziona, invece una cura facilissima, economica, rapida, che funziona sempre, chi è più fragile, spesso chi è più ingenuo anche, o chi è più disperato, la scelta insomma rischia di finire per la via sicuramente più facile da scegliere, ma probabilmente quella inefficace. Sento qualche ascoltatore, poi commentiamo insieme le telefonate. 800 24 00 24, sono già diventato un farmaco prezzolato pennivendolo da ieri sera, da quando ho cominciato a trattare questo episodio della Brigliadoro. C'è una forte reattività in rete, poi anche molto riferibile anche a schieramenti politici che per partito preso, vuoi dalle scie chimiche ai rettiliani, alle congiure dei grandi potentati, fino appunto al difendere l'indifendibile, fanno un fronte unico. Daniela, buongiorno. Buongiorno. Allora, io premetto che mio padre e mia madre sono vissuti più di 90 anni perché prima di mangiare si facevano un pasto di medicine, quindi non sono contro la medicina a prescindere. E in questo periodo sto aiutando una mia amica che sta facendo la chemioterapia. Ecco, quello che vorrei dire, oltre alle cose che ha detto alla debolezza psicologica della persona malata, vorrei aggiungere anche un'altra cosa, l'atteggiamento del medico nei confronti del paziente. Allora, dalle sensazioni che ho io, è che mentre ti trovi davanti a volte un medico che ti guarda, sì, sei un numero, ok? E quindi il suo rapporto con te è di un certo tipo, nella medicina alternativa invece si cura la relazione. Quindi è chiaro che una persona debole che dice mamma mia qua mi tocca morire, perché nell'immaginario il tumore è ancora legato alla morte, è chiaro che preferisce andare da quello da cui si sente accolta piuttosto che dalla persona che lo chiama freddamente. Lei dice una cosa molto, molto giusta, e poi chiederemo anche al medico che ne ascolta, perché bisogna anche parlare dei suoi colleghi. Da una parte il guaritore, l'imbonitore, il medico alternativo ha una forte carica empatica, sembra che ti prenda veramente a cuore, anche perché sei il pollo da spennare in quel momento. Il medico ufficiale molte volte si limita a darti un'occhiata e a farti una prescrizione, sei un numero, sei un qualcosa che ha un numero in mano in una sala d'attesa. Non esiste più, esiste molto poco, è molto limitato il rapporto umano con il paziente, lo scambio comunque di fiducia della persona che ha in mano gli strumenti della scienza medica. E questo è un dato che poi commenteremo. Anna Maria, buongiorno. Buongiorno. Meno male che esiste Nicoletti, anche se non sempre sono d'accordo con lei. No, facevo riferimento a una trasmissione di qualche tempo fa di Cruciani, dove aveva intervistato, mi pare si chiamasse Bekis o qualcosa, un professore dei Grillini, e io ero scandalizzata perché questo è inneggiato al fatto che loro propinavano queste cure, mangiare feci, bere pipì, curarsi con il mestro. Insomma, io ero allibita, giornalista, dico, ma non si possono dire queste cose. Andate a vedere sulla, mi pare che sia Gaia, adesso non voglio dire una cavolata, questa associazione. E io, mio mamma, dico che esiste lei, ecco, che... Vabbè, quello è neanche, secondo me... Sì, ma è un paradosso, chiaramente il collega ha sentito una persona e l'ha fatto esprimere come la cifra della sua trasmissione, facendogli dire pubblicamente quello che è il paradosso. Una volta che si sente per radio una persona che dà queste folli prescrizioni, è più facile riflettere, mi sembra anche uno strumento giusto. Io non sono per chiudere sempre la bocca, per questo ripeto, come la Brigliadoro è diventato per me uno spot efficacissimo per far riflettere le persone, anche il signore di Gaia che dà delle prescrizioni vomitevoli, se reso pubblico può diventare qualcosa che fa riflettere le persone, perché finché la cosa si consuma in questo senso di conventicola, di perseguitati, di verità sotterranea di persone che sono in realtà dei martiri della verità, ancora può esistere la possibilità che qualcuno, lasciato a se stesso con la sua infelicità, possa dar loro credito. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Pasteur, lo dico perché lo dicono più fonti, era un impostore, era un bugiardo. Da Pasteur è incominciato tutta l'industria farmaceutica, in base al batterio che va combattuto. Il batterio non va combattuto, perché il batterio è il virus, seppure esistono i virus, che c'ho il dubbio. Questi virus che non si vedono mai se non a microscopio elettronico, che non vengono mai combattuti da antibiotici. Perché non vengono combattuti da antibiotici? Perché? Perché non ci sono, semplicemente. Quindi, terreno malato bisogna curarlo. Come? Col digiuno, con l'energia. Tutto quello che gli dà un'energia, perché la presenza di un'energia. La purificazione, il digiuno, Rescue Remedy, Odo, in tutte queste forme, bagni derivativi che disintossicano. Si passa una febbre a 40, a me mi è passata 2 anni fa in poche ore, di notte. L'indomani avevo 12 pazienti da vedere. Grandissima, devo dire che dopo Vanna Marchi, una delle persone più degne di essere ascoltate per comprendere quali sono le molle che possono dare motivazione a persone ad agire anche nei confronti di proprie gravi, dolorose, pericolose patologie con sistemi naturali, è la dottoressa Gabriella Mereu con la sua terapia verbale. Dottor Salvo Di Grazia, lei ha trattato questo caso? La dottoressa Mereu è un caso serio, insomma, importante, l'ho trattato, ne ho parlato, che forse è anche la dimostrazione come davvero si possa credere a tutto. Ha decine di persone che la seguono, che la difendono a spada tratta, lei insulta i pazienti per farli guarire. E questo forse è importante. Scusi, perché, dottore, ma è medico, è un medico la dottoressa Mereu? È un medico, è stato radiato, ma ha fatto un ricorso a questa radiazione, quindi ancora in sospeso, attualmente è ancora un medico, esercita e va in giro per l'Italia. Ma non siete voi medici primi a dover impedire queste cose? Perché l'Italia è piena di persone che ci sono, io conosco persone che prescrivono chelazioni per danni da vaccino ad autistici, prescrivono diete, prescrivono cure omeopatiche, prescrivono tutta una serie di cose assurde. Come mai nessuno di voi medici dice tu non fai più parte del nostro ordine e impugna e si ha da fare perché siano radiati, almeno non siano più medici, siano chiamati in altra maniera? Non dovremmo essere noi medici, ma chi coordina e ordina i medici, cioè gli ordini dei medici, che soltanto ultimamente sembrano essersi un po' svegliati. Questo ovviamente è un problema, perché? Perché gli ordini dei medici hanno fra le loro fila anche omeopati, medici alternativi. Recentemente c'è stato un convegno al Senato di medicina alternativa. Cioè, voglio dire, alla fine purtroppo a volte le istituzioni stanno a guardare per non pestare i piedi a qualcuno che è un associato, un amico, un collega. Io non sono d'accordo, se un medico fa qualcosa che non è medicina dovrebbe essere radiato. Ma chi è l'organismo superiore? L'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute? Chi dovrebbe avere una parola su tutti e dire tu non puoi più fare il medico perché stai illudendo persone e lucrando sulla disgrazia degli altri? Assolutamente gli ordini dei medici, assolutamente. Ma se pensiamo che negli ordini dei medici ci sono alcuni ordini che hanno come presidente un omeopata, la risposta è chiara, ecco. Ma ci sono paesi civili in cui l'omeopatia viene considerata una cialtronata e non una scienza esatta? Allora, è chiaro che dal punto di vista di vista scientifico in tutti i paesi del mondo e per la scienza l'omeopatia non è medicina, è una terapia alternativa senza nessuna efficacia. È normata, cioè è possibile la vendita con determinate caratteristiche, per esempio quella di dover dire non ha nessuna indicazione terapeutica. Quindi quando uno acquista un farmaco omeopatico, trova scritto non ti fa niente, però se vuoi compratelo. Esatto, sai che non fa nulla, sta a te scegliere. E perché le farmacie hanno interi banconi con farmaci omeopatici? Molte volte prescrivono il farmaco omeopatico, prova quello omeopatico, che ne so, magari ti funziona meglio. Perché non ha effetti collaterali, non essendo nulla non ha nessun effetto collaterale, il farmacista non rischia nulla, se hai un mal di tosse che sarebbe passato in due giorni senza far nulla, prendi l'omeopatico e ti passerà lo stesso in due giorni e ho guadagnato un po'. Sentiamo Raffaello. Raffaello, buongiorno. Buongiorno dottor Nicoletti, volevo portarle in breve la mia esperienza. Nella mia famiglia noi siamo i sei figli, tutti adulti, abbiamo una sorella affetta da un gravissimo, sottolineo, gravissimo caso di handicap, con tutte le problematiche che non sto qui a spiegare. Più volte negli anni ci siamo stati avvicinati nella mia famiglia, qualche membro della mia famiglia, da uno di questi cialtroni che promettevano, ma guardate che potrebbe essere un percorso da fare in una direzione rispetto a un'altra. Fortunatamente trovo la mia famiglia dove invece logicamente si fa scudo con tutto quello che la medicina, strutture, strumenti possibili per affrontare la nostra situazione. Ma che percorsi vi consigliavano? Per dirle, capita una persona che la mette sul piano religioso, se non si sta a tutta la spiegare per questa cosa, le ha dato un'indicazione religiosa su preghiere, percorsi, tutte cose di questo genere. Io devo dire, e me ne prendo la responsabilità, dottor Salvo di Grazia, ci sono persone che organizzano dei treni per portare i malati a Lourdes, cioè anche su questo si dovrebbe un po' riflettere. La fede va rispettata assolutamente, è un conforto invidiabile, ma pensare che portare dei malati in un treno davanti a una statua in una grotta e pensare che questo corrisponda a una terapia, forse bisognerebbe distinguere dicendo fai l'atto di fede perché ti fa bene allo spirito senz'altro, ma non pensare che questo guarisca la tua malattia. È d'accordo lei? La fede ovviamente deve essere rispettata, però su Lourdes c'è un dato interessante, circa 300 milioni di fedeli vanno a Lourdes per guarire, 50 guarigioni dimostrate, quindi c'è un'efficacia dello 0,00002%, cioè è meno efficace dell'effetto placebo, quindi ognuno può scegliere ovviamente. Gennaro, buongiorno. Ah, buongiorno. No, niente, io volevo dire che diciamo che sia la medicina alternativa che quella ufficiale diciamo sono valide tutte e due, ma chiaramente la gente deve poter anche scegliere nell'ambito della sanità pubblica rispetto a queste due medicine, diciamo. Cioè, finanziate entrambe con soldi pubblici? Esattamente, perché mentre quella ufficiale è finanziata con soldi pubblici, quella alternativa la finanziano direttamente i medici che fanno questo tipo di medicina. No, la finanziano i pazienti, i medici la propinano, la finanziano i pazienti semmai. Lei vorrebbe che il servizio pubblico finanziasse anche la cosiddetta medicina alternativa? I medici che scrivono libri, altre persone si autofinanziano in questa maniera, diciamo, finanziano la loro ricerca. Poi i malfattori, i cialtroni, ci sono anche nell'ambito della medicina ufficiale. Se noi vediamo il caso di Paolo Macchiarini, ma ci sono mille casi. Io non ho detto mai che l'uomo è perfetto, che i medici sono dei santi scesi in terra. Sto dicendo che il principio che deve ispirare comunque il servizio pubblico sanitario è quello dell'evidenza scientifica. Non possono passare con soldi pubblici dei farmaci che non hanno appunto dato prove di evidenza di essere efficaci. Dottor Salvo di Grazia, lo traduce questo in termini più esatti che l'ho solo approssimativamente detto? No, ha detto benissimo, nel senso che ovviamente la libertà di scelta e di cura è sacrosanta, ogni paziente, ogni cittadino deve curarsi come preferisce, è ovvio che le strutture pubbliche, il Servizio Sanitario Nazionale deve offrire soltanto terapie, medicine, cure che abbiano evidenza scientifica, cioè che abbiano dimostrato di funzionare. Poi se una persona vuole non curarsi, curarsi con l'emopatia, curarsi bevendo la propria urina, la libertà di scelta ci mancherebbe. È anche importante dire che anche essere correttamente e onestamente informati aiuta a essere liberi, perché io sono convinto, se sono convinto che l'urina mi cura dal tumore, è ovvio che non sono libero, sono stato plagiato. Sentiamo solo Noemi, buongiorno. Buongiorno, io sono un medico e volevo spaccare una lancia soprattutto sul discorso del rapporto medico-paziente, della fiducia e dell'empatia che si deve creare. Io sono una vecchia signora, quindi sono stata formata in università e quando ancora non si parlava quasi di psicologia, no? Ma anche adesso i medici non vengono formati a un vero rapporto medico-paziente, e quindi la mia spinta è quella di dire alle persone: ma andate un po' oltre, cioè c'è il medico che ti è simpatico, che riesce a dialogare con te, che riesce a trasmetterti fiducia, è quello che magari sta più sulle sue, ma non è che te sei un numero, te sei comunque un paziente che lui cura e cerca di curarti sempre al suo meglio. Parlo della medicina tradizionale, non sto parlando io rispetto il tuo punto di vista e non ho ragione di dubitare di quello che lei sta dicendo, in cui crede, ma mi creda, non sono tutti così i medici, ci si trova davanti a dei veri animali molte volte, dobbiamo dirlo questo, e questa magari è la ragione per cui è più facile credere allo pseudomedico, che avvolgente, che ti abbraccia. Molte volte sono dei medici che veramente ti sembra di essere trasparente, non voglio generalizzare né nel bene né nel male, ma il vero problema è proprio questo. Primo, in Italia non c'è una cultura scientifica, non c'è capacità di divulgare la cultura scientifica. Sì, però i vecchi milanesi dicevano le cattive ma le brave, cioè non è traducibile, però il fatto che una persona fosse burbera non voleva dire... Ma non è l'essere burbero, è essere indifferente, è dedicarti 30 secondi e farti staccare la parcella e farti scrivere dall'infermiera quella che è la prescrizione, o fartela al telefono molte volte. Guarda che questo accade, vada nelle corsie degli ospedali, vede, è un atteggiamento generalizzato. Quindi dicevo, da una parte non c'è cultura scientifica, d'altra parte la classe medica deve rendersi conto che non è un lavoro come fare il ragioniere, il commercialista o l'ingegnere, fare il medico. Si mettono le mani nella carne palpitante e sofferente, quindi ci vuole un minimo di vocazione in più rispetto ad altri mestieri. Fermiamoci un istante, tra poco. Melog, cronache meridiane. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Chiamo perché un anno e mezzo fa, circa, poco meno, mi è stato diagnosticato un cancro che ho curato, tra virgolette, non so, in questo momento clinicamente sembro guarito, con la medicina tradizionale. Non ho avuto dubbi sull'accesso alla terapia classica. Mi permetto di riprendere un attimo la frase del professore che dice però che manca capacità di divulgare il sapere scientifico, perché nessuno ha gli strumenti per offrire una comunicazione efficace sul web, dove invece ciarlatani e sostenitori di tesi assolutamente verosimili usano chiavi che rendono più appetibile il loro messaggio. Al tempo stesso mi permetto di sottolineare che però sono stato, ormai dovrei essere effettivamente guarito, affetto da una patologia cronica che mi ha dato fastidio per 20 anni, che la medicina tradizionale non ha saputo in nessun modo trattare, guarire, mentre accedendo al trattamento non di un ciarlatano, credo di un geriatra che ha scelto comunque di studiare anche le medicine degli altri, con questo intendendo agopuntura, comunque tutto ciò che in qualche maniera è legato all'Oriente, e onestamente mi ha regalato 7-8 anni di benessere importante. In questo momento io sto molto bene. Allora Andrea, l'atteggiamento di cui mi faccio io interprete in questo momento non ha una pregiudiziale laica, che sarebbe altrettanto grave come la superstizione. Io non ho nessun dubbio che il signore che l'ha trattata con l'agopuntura le abbia creato dei vantaggi. L'evidenza scientifica è un'altra cosa. È un metodo, dice, magari al signor Andrea ha fatto bene, benissimo, ci fa piacere, ma per dire che questa è una cura deve far bene a tutta una serie di persone di cui devo verificare comunque la reale efficacia. Dottor Salvo Di Grazia, molti mi chiedono informazioni sul suo sito MedBunker, come ci si accede? Basta cercare su Google MedBunker e si trova un tutto. Blog. Come rispondiamo, Andrea? Perché mi stanno arrivando un'infinità di messaggi di persone che dicono: io ho fatto questo, sto meglio, l'amico ha fatto quest'altro e sta meglio. Poi tutti impugnando le competenze, citandomi scienziati, casi, persone. Perché? Perché internet è diventato il succedaneo di ogni laurea, di ogni specializzazione. Come si risponde alle persone che comunque hanno avuto dei vantaggi seguendo dei metodi di trattamento di una patologia non tradizionale? Probabilmente qualcuno qualcuno avrà avuto dei vantaggi. È ovvio che curando una qualsiasi malattia con una terapia non riconosciuta o non ufficialmente così scientifica, è possibile che qualcuno abbia avuto dei vantaggi. Questo non significa che quella terapia sia per forza efficace, perché come lei ha detto, prima di dirlo bisogna vedere se questa cura funziona su tutti. Se una terapia somministrata a 100 persone funziona su una e non su 99, significa che non funziona, però quella persona magari è guarita. Questo non significa che è una terapia effettivamente efficace o scientifica, è una terapia che non cura, su qualcuno può aver avuto qualche effetto. Quindi succede, è un ragionamento abbastanza scientifico in questo senso. Cioè la terapia deve essere universale, replicabile e soprattutto controllabile nei suoi effetti. Non è che dice ti infilo l'ago e tu stai meglio. Sì, può essere, magari mi sto meglio, ma se infili l'ago al mio collega che ha lo stesso problema magari non cambia nulla. Esatto, anche nella medicina è così, funziona così. Se è una pillola per il mal di testa che funziona su una persona su mille, non significa che funziona perché su quella ha avuto effetto. Deve funzionare non su tutti, perché è impossibile, ma su una maggioranza di persone. Questo è il principio dell'evidenza scientifica, nel quale noi abbiamo un margine più alto che in altri casi di affidarci a delle terapie che possono essere per noi efficaci. Non mi sembra complicatissimo. Poi uno può anche credere che, o può anche fargli bene fare altre cose, fare yoga può far benissimo, massaggi ayurvedici figuriamoci, si rinasce, tutte le manipolazioni possibili ti fanno alzare che ti sembra impossibile di aver avuto quel tipo di problema articolare. Però non è una cura che ha evidenza scientifica. Marco, buongiorno. Buongiorno, Marco Giardino da Torino. Problema questo, bambino di 2 anni e mezzo diagnosticato spettro autistico. Te lo sta facendo le terapie tradizionali, tutto quanto, ma io vengo incolpato dalla mia compagna continuamente per aver permesso di fare i vaccini. Perché? Perché legge sui vari forum che il vaccino porta l'autismo. Il bambino viene seguito adesso normalmente, ma problemi di coppia gravissimi, perché questa la mia compagna continua assolutamente a essere fissata con l'autismo. In più va a fare ricerche assolute, andiamo anche a prendere un pseudomedico farmacista in cui lui gli dà ragione, dice guarda devi fare tutte queste terapie, ovvero non mangiare farinacei di un certo tipo, certo. Non mangiare questo, non mangiare, ma arriviamo all'incredibile, deve fare l'esame delle feci, sì, ma non andate a fare l'esame delle feci dall'ASL, ma andate a farlo dal veterinario, perché solo i veterinari riescono a fare questo tipo di esami. Fa un po' ridere. No, Marco, non fa ridere, purtroppo lei conosce la mia situazione, sono anni che mi occupo di fantautismo. So che esattamente uno dei problemi principali è proprio questo, che nella coppia di genitori c'è una sorta di scarico di responsabilità, nel suo caso colpa sua per la portata a vaccinare, in altre famiglie colpa della madre perché non è stata sufficientemente materna. C'è sempre una spiegazione che dovrebbe in qualche maniera sollevare i genitori dal fatto che il figlio ha un problema del neurosviluppo che in gran parte è dato dal loro patrimonio genetico, soprattutto dal suo come padre, in questo probabilmente ha ragione sua moglie. Lasci perdere le disintossicazioni, le chelazioni, lasci perdere le diete, non servono a niente, e cerchi un bravo neuropsichiatra, se vuole glielo posso consigliare poi in particolare, e inizi subito un trattamento comportamentale con suo figlio, è l'unica maniera per aiutarlo ad avere una sua autonomia, il resto sono cialtronate, sono chiacchiere, ahimè, sono medici quelli che prescrivono questo tipo di terapie che ancora hanno diritto di parola. Salvo di grazia. Dell'autismo ne abbiamo parlato tantissime volte, è davvero sembra un muro difficile da abbattere. Perché anche in questo caso si parla di cure strane, fantascientifiche per l'autismo? Proprio perché la medicina non ha risposte, non ha risposte certe, non ha risposte definitive. Allora i genitori ovviamente, e io non li biasimo perché li comprendo, cercano il miracolo, e come lei ha detto il miracolo in questo caso sta nelle diete, nella chelazione, c'è un medico ormai radiato in America che addirittura dava un farmaco castrante, c'è un antiormonale, eppure questi sono dei guru, perché qualche genitore dice ma su mio figlio ha funzionato, qualcosa ha fatto. C'è una storia famosissima, un medico americano, James Laidler, che era un famoso sostenitore di queste pseudoterapie, al quale il medico gli aveva prescritto diete senza glutine, senza caseina, il figlio sembrava migliorare, un giorno il figlio va a Disneyland e prende un dolce e quindi interrompe questa magia. E il padre si rende conto che nonostante il figlio abbia interrotto questa dieta, migliorava lo stesso. Perché? Perché stava crescendo, aveva dei piccoli miglioramenti. Quindi non era successo niente. La sigla ci porta via, ringrazio il dottor Salvo Di Grazia, ringrazio quelli che ci hanno seguito, ringrazio anche quelli quelli che con grande tenacia mi hanno scritto sms dicendo che non ho capito nulla della vita. Alla prossima!